Italia in controluce. Buongiorno da Alessio Maurizi, ben ritrovati all'appuntamento con le storie, i fatti e i personaggi che ci parlano dell'Italia in controluce. Continua a Italia in controluce il viaggio nelle città dove si è votato e dove si sono già decisi i nuovi sindaci. Andiamo a conoscerne altri due, andiamo a conoscere le loro idee per la città. Cominciamo da Piero Fassino a Torino, l'ha intervistato Cristina Carpinelli. Ma devo dire che si respirava in città. Io ho girato in lungo e in largo per 5 mesi Torino e respiravo consenso, attenzione, simpatia, anche molto affetto. Poi naturalmente non bisogna mai dare per scontato nulla e quindi ho lavorato fino all'ultimo minuto per raccogliere tutti i voti possibili e ne ho raccolti tanti. Credo che sia un voto che dice che la città si è identificata in questa candidatura. Lei ha parlato molto alle persone che stanno vivendo la crisi sulla propria pelle. Crede che questi temi abbiano inciso in particolare? Sì, io ho fatto una campagna molto concreta, ho fatto una campagna che non ha mai usato alcun tono astioso nei confronti dei competitori e mi sono concentrato su Torino, i suoi problemi, la mia idea della città, le proposte, in modo tale che i cittadini potessero, come dire, valutare con grande serenità le proposte in campo e decidere. E io credo che questo modo alla fine abbia pagato, nel senso che la gente ha sentito una politica vicina e non lontana. Cosa dice a proposito del risultato milanese? Beh, è un risultato straordinario, grazie alla personalità di Giuliano Pisapia, che io conosco bene perché siamo stati molti anni colleghi in Parlamento, e grazie a una mobilitazione della Milano Democratica che ha dato una prova di straordinaria vitalità e forza. E naturalmente ha pesato anche gli errori fatti dalla destra, che ha una condotta brutale e arrogante che alla fine ha perso consensi. Ecco, Fassino, un dato che emerge da questa tornata è anche il fatto che la Lega ha perso tantissimo anche nelle sue roccaforti. Questo è il dato politico più rilevante di tutto di questa consultazione, perché in fondo che Berlusconi fosse in crisi lo si sapeva, mentre si continuava a accreditare la Lega come un partito d'acciaio e impenetrabile a qualsiasi difficoltà, invece non è così. I voti di Varese, di Gallarate, di Novara, ma anche qui a Torino, sono la dimostrazione di una Lega in crisi soprattutto la linea, diciamo, del tenere il piede in due scarpe, perché non puoi dire sto con Berlusconi ma poi ogni giorno far credere che non hai niente a che vedere con lui, perché questa linea qui alla fine non paga, anzi si rivela un inganno che i cittadini puniscono. Due candidati indicati da Vendola hanno avuto un grandissimo successo, Pisapia uno e l'altro è De Luca a Salerno, De Luca addirittura ha spopolato. Anche questa è una forza nuova che sta entrando all'interno del centro-sinistra? Ma io su questo sono portato più a vedere che il centro-sinistra è sempre di più un aggregato unitario. È un sistema che tende per di più alla bipolarizzazione ed è così, perché poi quando si va a votare sono in campo tanti candidati, ma alla fine due scelte, no? Una progressista e una conservatrice. L'elettorato vota il candidato o progressista o conservatore che in campo non si appassiona più di tanto all'appartenenza politica del candidato. E ora invece andiamo a Catanzaro, incontriamo Michele Traversa del Popolo della Libertà, l'ha intervistato Jacopo Matano. Oltre al programma che ho presentato, a me ha premiato la mia attività passata e nei vari incarichi istituzionali che ho ricoperto, perché sono stato assessore regionale al turismo, sono stato presidente dell'amministrazione provinciale per 2 mandati e quindi ho realizzato moltissime opere nella città di Catanzaro che mi hanno dato quella visibilità e quella notorietà all'interno di Catanzaro come uomo del fare. Ho spaziato dal quartiere Marinaro per rilanciare il turismo nautico e lanciare Catanzaro Lido e Catanzaro dal punto di vista turistico e commerciale, e tante tante altre iniziative e programmi che io ho portato a conoscenza della città di Catanzaro. Proprio sulle cose da fare, Catanzaro è una città però difficile per la presenza dell'andrangheta. Come farà a mettere al riparo gli appalti e i cantieri dall'infiltrazione della criminalità organizzata? Io sono stato presidente dell'amministrazione provinciale, non ho mai avuto un avviso di garanzia,